in primo piano. In questo mercoledì 19 maggio, ebbene sì, la manovra incombe, Tremonti ne sta parlando, comincia a profilarsi qualcosa. Tremonti, caccia agli evasori. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Poi ci sono giornali che aprono con lo stesso titolo, caccia a evasori e falsi invalidi, così il Corriere e la Stampa. Repubblica, taglia la sanità, caccia agli evasori. Il Giornale, altri soldi a tutti i politici. E poi c'è chi sceglie Anno Zero e Santoro. Anno Zero se ne va per Il Fatto, mentre Belli ciao su Libero, e c'è Santoro con Travaglio, la foto. Come detto, la manovra è sullo sfondo, sono tutte indiscrezioni, è vero, si sta approntando la manovra correttiva dei conti di circa 28 miliardi entro fine maggio, inizio giugno. Oggi Tremonti vedrà Berlusconi. Tagli alla spesa improduttiva, taglio della spesa pubblica improduttiva, lotta agli sprechi a partire dalle pensioni di invalidità e agli evasori fiscali, veri evasori. Questo ha detto ieri il ministro Tremonti, che poi ha aggiunto i costi della politica, l'annunciato taglio del 5% è solo l'aperitivo, ha detto Tremonti. Però sempre nell'alveo delle indiscrezioni, che cosa si comincia a ipotizzare? Per esempio, pagina 2 del Sole, rispunta il ticket, il super ticket da 10 euro. Il ministro della salute Fazio in mattinata ieri ha fatto capire che anche nella sanità si potrà andare a pescare qualche soldino, perché ha detto la sanità vale l'80% dei bilanci regionali, non possiamo che non possiamo pensare che non possa essere toccata. E allora spunta la rinascita del super ticket sanitario da 10 euro sulle prestazioni specialistiche nel menù delle misure della manovra 2011-2012. Così scrive il Sole a pagina 2. Sarebbe un recupero di 834 milioni su base annua. Le regioni avrebbero due possibilità: o mettere il super ticket, oppure non mettere il super ticket, ma trovare comunque la copertura autonomamente con risorse a carico del proprio bilancio. Oppure, altra possibilità, mettere un ticket inferiore a seconda delle proprie disponibilità. Comunque, il super ticket da 10 euro sulle prestazioni sanitarie pare che sia una delle misure allo studio. E poi, come detto, la lotta ai falsi invalidi, tanto che oggi Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera, se finto cieco è anche lo Stato, fa un lungo articolo in cui racconta la battaglia, peraltro una battaglia un po' contro Don Chisciotte e mulini a vento, dello Stato contro i falsi invalidi in tutti questi decenni. Il finto cieco che dopo aver ottenuto la pensione di invalidità supera l'esame della patente è ormai un classico, scrive Rizzo, ma c'è anche il sordo che suona in una banda musicale, l'anziana signora inabile al 70% che chiede il porto d'armi, una famiglia di 16 persone con 16 pensioni di invalidità. Per non parlare del non vedente con la vista di un'aquila che una volta scoperto ha tirato fuori una scusa strepitosa: sono appena tornato da Lourdes. Ebbene, anche questa è storia dell'Italia, finti ciechi e grandi evasori, caccia a singhiozzo ai furbi, così scrive Sergio Rizzo a pagina 3 del Corriere. È un grande classico il cieco senza patente, ma è anche un classico la guerra ai falsi invalidi. Tanto che Rizzo poi dice non ci siamo accorti che le pensioni di invalidità sono cresciute a un ritmo di 20-30 mila l'anno? Nessuno si è accorto che in Sicilia c'è un invalido civile ogni 51 abitanti, più del doppio della Lombardia? Che in Campania, per 10 anni amministrata dal centro-sinistra, sono ancora più numerose, una ogni 46 abitanti? I falsi invalidi, insomma, si preoccupino, ma Tremonti si prepari. Non sarà facile. Insomma, un po' pessimistico Sergio Rizzo, almeno a dire ci hanno provato un po' tutti a colpire le false pensioni di invalidità. Risultati pochi. Attenzione all'evasione fiscale, perché, e lo conferma il Sole a pagina 5, è in arrivo in Italia la lista HSBC. Che cos'è questa fantomatica? Dopo la lista Anemone forse avremo una nuova lista. Quella che l'ex dipendente della HSBC in Svizzera, Hervé Falciani, a un dipendente di questa banca ha sottratto una lista con 127.000 conti correnti riconducibili a 80.000 persone residenti in 180 stati diversi. Ci sono anche alcuni conti italiani, 7.000, depositati in Svizzera. Dal 2006 al 2008, chi ci segue in rassegna stampa, io già un po' di tempo fa ne parlammo e dicemmo: avete aperto un conto in Svizzera dal 2006 al 2008? In bocca al lupo, perché la Procura di Torino ha ottenuto dall'autorità che sta indagando, vale a dire in Francia, l'elenco di queste 7.000 persone, 7.000 conti sotto esame, in corso le verifiche della Guardia di Finanza sulla lista HSBC, scrive Il Sole 24 Ore, anche se sul Corriere parla Fulvio Pelli, presidente del Partito Liberale Radicale Elvetico, che dice: attenzione, quei dati presi da Falciani non permettono di appurare quello che i clienti hanno sui loro conti. È un mero elenco, una lista, 7.000 nomi. Non si può sapere se dentro c'è un franco, un milione di franchi o chissà quali soldi o come sono stati recuperati questi soldi. E se la procura di Torino, qualsiasi procura, venisse a bussare alla porta in Svizzera a dire: ci dite chi sono i titolari dei conti, quanto hanno sul conto? Beh, noi risponderemo: picche. Dice Pelli: da noi non avranno informazioni, se cominciamo a lavorare coi proventi di un reato viene svilito il ruolo degli stati. Il reato sarebbe quello di questo dipendente Falciani che ha recuperato tutti questi nomi e poi pare li abbia offerti a mezze procure d'Europa. Allora, dalla Svizzera dicono: tranquilli, è un elenco di 7.000 nomi, non diremo mai quanto c'è su questi conti. Ma voi ve li immaginate già in Italia, dove si fanno poi i processi sui giornali, se già uscisse la lista di 7.000 nomi e cognomi di persone che hanno dei conti in Svizzera, magari hanno un euro, o meglio un franco, depositato, magari è tutto legittimo, però, insomma, sapete com'è, no? Siamo specialisti in liste. C'è tutto molto anche sul redditometro che cambia, a pagina 5 del Sole, l'abbiamo sentito in Genere 24. Entrano le minicar, le scuole private, i viaggi, i circoli, cioè le frequentazioni di dove, le iscrizioni, se uno anche va a una spa. Ci saranno dei calcoli molto semplici: guadagni 14.000 euro, non puoi comprare una minicar da 10.000 euro a tuo figlio. È un po' quasi matematica, ma insomma l'evasione fiscale è il tema del nostro sondaggio anche, prendendo spunto da quello che Antonio Scurati ieri sulla stampa ha scritto in una invettiva, ha detto: più che un articolo, un commento, è uno sfogo, basta, non ne posso più di pagare io le tasse, io che sono ricercatore universitario, a tutti coloro che non sono dipendenti e evadono il fisco. Che ne pensate? Via il diritto di voto a chi evade? Votate su radio24.it. Certo, sui tagli si sbizzarriscono. Libero è il giornale, per esempio. Libero, un giornale che è sempre stato contro la cosiddetta casta. I burocrati mangiano più dei politici. Guardate a pagina 8 che succede. L'elenco degli stipendi dei dirigenti pubblici, da Vittorio Grilli, il direttore generale del Tesoro, colui che è stato un artefice importante del salvataggio, insomma, messo a punto della Grecia, il piano di salvataggio. 518.000 euro, Mario Canzio, ragioniere generale dell'economia, 516.000 euro, Giampiero Massolo, segretario generale della Farnesina, 296.000 euro, e via un elenco di almeno un centinaio di nomi. La priorità è scardinare le caste, oggi Libero se la prende coi burocrati, che mangiano più dei politici. A proposito di politici, c'è anche lo sfogo di Fini che dice: intanto qui si lavora poco alla Camera, tanto che il Riformista mette 1.000 disoccupati. Questo è il titolo d'apertura: governo paralizzato, il Parlamento non ha nulla da fare. E il direttore Antonio Polito, che è stato anche senatore e dunque se ne intende di questo tema, che parla e fa un editoriale in prima pagina. Ma insomma, sullo sfondo della manovra, lo studio di Tremonti, si muove tutta la politica. Ieri c'è da registrare questa cosa che Bossi ha detto: il federalismo mi preoccupa, e Fini dice: a rischio la coesione nazionale. Questi sono due. E poi c'è un Berlusconi molto silenzioso, tanto che il Foglio dice: Berlusconi è intenzionato a riprendere in mano l'agenda di governo. Si è stufato di vedersela dettare dalla magistratura, dai quotidiani e anche dagli alleati. Il Presidente del Consiglio vuole, sembra voler trattenere per sé l'interim allo sviluppo economico. Un interessante fondo sul foglio su cosa bolle in pentola della politica, mentre è tutto retroscena. Berlusconi parla pochissimo, tanto si sa che ha visto Scajola per 6 ore a cena. Questo lo scrive per esempio La Stampa, pagina 7. Ora Berlusconi, nel vedere anche Scajola con Ghedini, hanno messo a punto tutta una serie di strategie, si è fatto spiegare Berlusconi. Berlusconi ora teme l'assalto di 8 procure. Così scrive La Stampa, pagina 7. Un Berlusconi preoccupato, scrive anche Repubblica, con il retroscena di Francesco Bei. Il Cavaliere chiede pazienza a Umberto, colpiranno anche Dell'Utri per attaccare me. Questo sarebbe il nuovo fronte per Berlusconi. Vale a dire, in questo clima avvelenato ci sarà il tentativo di attaccarmi con la sentenza in arrivo, in appello, per Marcello Dell'Utri, che è già stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. E, insomma, non è una bella... un bel momento, un buon momento, non tira una bella aria. Berlusconi è molto silenzioso, addirittura è rispuntata Noemi Letizia è rispuntata, per la verità, in francobolli di giornale si trova, però stranamente il giornale che dà più spazio al ritorno in qualche modo di Noemi è Libero, a pagina 2. Rispunta Noemi, che ha detto in un'intervista: sento Silvio ogni settimana. Alla TV privata Napoli, canale 21, Berlusconi mi chiama ogni settimana. Vuol sapere come sto, cosa faccio, mi controlla ancora. Continuo a chiamarlo Papi. La mia vita da quel giorno certamente è cambiata, ma lui resta un punto di riferimento per me e la mia famiglia. Altro cruccio, pare, per Berlusconi è il Milan. Secondo il settimanale Berlusconi vorrebbe vendere il Milan, o meglio, lo sfogo è questo: vorrei vendere il Milan ma non posso. Lo psicodramma Milan è un caso politico, tanto che Franco Ordine, che scrive di sport, scrive a pagina 9 del giornale: le indiscrezioni dei fedelissimi, Berlusconi sta pensando di cedere la squadra. Ovviamente immediata la smentita ufficiale, ma la crisi di risultati di rossoneri e la contestazione che c'è stata in curva nell'ultima di campionato Milan-Juventus rischiano di far perdere consensi al Premier. Insomma, questo bolle in pentola della politica. Poi c'è tutta la vicenda dell'inchiesta del G8 e quant'altro. C'è anche il caso Santoro subito dopo il traffico. Allora, sul G8 e le case, vabbè, ci sono novità delle inchieste. L'architetto Zampolini, che scrive Antonio Massari a pagina 3 del Fatto, ha fatto un interrogatorio e le prime conferme: gli assegni erano per casa Scajola. Questo titolo di pagina 3 del Fatto. Ma insomma, il potere e la casa, il potere e la casa continuano, tanto che oggi Libero anticipa quello che pubblicherà oggi, scusate il gioco di parole, il settimanale Oggi, lo pubblicherà oggi il settimanale Oggi. Vale a dire, un'inchiesta che ha fatto Mauro Suttora, che sono andati a fare, sono andati dai 945 parlamentari a chiedere: lei dove vive? Ci dice quanto paga? Hanno risposto solo in 80. Per carità, non è che sono informazioni che uno deve dare per forza, però ha risposto meno del 10%, 80 parlamentari su 945, alla domanda: ci fa sapere dove vive, a casa, ha un mutuo, quanto paga in affitto, per favore, caro onorevole, caro senatore? Ha risposto solo alcuni: Fassino si è distinto, i radicali, scrive Mauro Suttora, molto trasparenti, Maurizio Lupi, Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori, Lupi del PDL, Castagnetti del PD, Elio Lannuti dell'Italia dei Valori, alcuni casi. Casini, che dice: ma ho solo, vivo in una casa di proprietà della moglie, Azzurra Caltagirone, vale a dire la figlia di Gaetano Caltagirone. 80 su 945 ha risposto, gli altri no. Sulla politica c'è anche da dire il caso, lo trovate molto del botta e risposta, insomma volano veramente parole grosse, stracci a sinistra tra De Benedetti, l'editore De Benedetti, e D'Alema. L'antefatto è che De Benedetti aveva definito in un libro scritto da Paolo Guzzanti, D'Alema, uno che ha ammazzato il PD e che nella politica e nella vita non ha fatto nulla, o meglio nella vita, non ha fatto nulla perché ha fatto politica, cioè non ha mai lavorato. La replica di D'Alema era stato: ci sono degli imprenditori che vogliono fare i Berlusconi di sinistra, ma sono solo dei berluschini. Controreplica di De Benedetti, che spero chiuda il caso: D'Alema è un problema umano. Trovate molto sui giornali di Santoro. Molti saranno contenti, Santoro non è più in Rai, ha sciolto il contratto con la Rai, non è più dipendente a Rai e diventa consulente della Rai. Accordo con la Rai, addio all'azienda e ad anno zero. Realizzerà docufiction da esterno, pagina 10 e 11 del Corriere, si vocifera di una cifra per risolvere il contratto di tra i 2,5 e i 2,7 milioni di euro per Santoro. Tutto consensuale, eh? Sapete cosa ha detto Bruno Vespa? Il commento: per lui essere perseguitato è stato un magnifico investimento. Farà forse dei docufiction. C'è lo stupore da parte di tutti i collaboratori, a cominciare da Marco Travaglio: non ne sapevo nulla, mi dispiace, perché anno zero chiuderà. Travaglio stupito, fulmine a ciel sereno: non ne sapevo nulla, sto cercando Santoro, non lo trovo. Vabbè, c'è tantissima cronaca, molto del serial killer o presunto che avrebbe ammazzato 7 anziani in corsia negli ultimi anni. Sarebbe un ex infermiere dell'ospedale Gemelli di Roma, già in carcere per l'uccisione, questa confessata, di una sua ex amante. E l'accusa avrebbe preso dei soldi dalle pompe funebri. Cioè, incredibile, tipo 50 euro a persona per segnalare alle pompe funebri chi moriva. È solo che chi moriva, secondo l'accusa, lo sapeva benissimo, visto che era lui ad ammazzare soprattutto persone anziane con alcune iniezioni letali. Devo dare alcune segnalazioni in conclusione dicendo questo. Intanto, come detto, di notizie di cronaca di questa del serial killer lo trovate ovunque. C'è anche Carlo Bonini, che si produce in due pagine molto intense su Repubblica: 7 anziani ammazzati in corsia, viaggio nella testa del serial killer. Ma le due segnalazioni conclusive sono queste. La prima: ce l'ha solo la stampa, il boss depresso dall'ergastolo alla scarcerazione. Io quando leggo queste notizie mi chiedo in che razza di paese viviamo. È colui che è stato accusato di aver fatto rapire a Palermo il bimbo disciolto nell'acido. Ve lo ricordate? Giuseppe Di Matteo, figlio di Matteo che stava parlando perché il padre era un pentito. Ve lo ricordate quella immagine del piccolo Di Matteo che salta a cavallo su un ostacolo, no? Storica. Ebbene, questo mafioso Salvatore Vitale è depresso, ha 64 anni, era in carcere per il rapimento e l'uccisione del piccolo Di Matteo, il cui corpo è stato sciolto nell'acido. È depresso Salvatore Vitale, è depresso questo mafioso. A Pavia il tribunale di sorveglianza gli ha detto è depresso e gli ha concesso gli arresti domiciliari. Il boss depresso dall'ergastolo alla scarcerazione. Chiudo con una spettacolare intervista che Fabrizio Roncone ha fatto a Carla Fracci, quella che ha gridato di tutto in faccia al sindaco Alemanno: mai visto un cigno così. Sì, lo so, ho alzato la voce, il mio corpo ha avuto un atteggiamento un po' aggressivo, ma non ho detto vigliacco e farabutto, ho solo urlato al sindaco Alemanno: vergogna, perché è questo ciò che deve provare, il vergogna. E lo dico, non mi pento per nulla, non mi ha ricevuto per 2 anni e mi diceva quando mi incontrava: signora, non oggi che non posso, ma la settimana prossima. Ma è dura da credere, signora Fracci, il sindaco, le giuro, è stato un comportamento intollerabile il suo. E non è questione di contratto che non mi hanno rinnovato. A proposito, chi mi sostituirà? Un signore di 66 anni. Ah, molto più giovane di me, che ne ho 74. Non confessi l'età, signora. Ma chi se ne importa? L'età non conta. Ho 74 anni. Allora, sono stata nell'ultimo decennio sul palco 397 volte. Infine, la questione dei compensi. Lei ha percepito 2.500.000 euro. E allora? Primo, io non evado le tasse. E secondo, quella cifra è da considerarsi all'ordo. E poi provi a farsi due calcoli e spalmarla su 10 anni. Carla Fracci, l'Étoile, 74 anni, reagisce altro che come un cigno, come un leone.